Night Train. Buonasera a tutti quanti i nostri radioascoltatori, siamo i mitici Mozilla Bros, i mitici per modo di dire, perché se non c'è quel santerellino di Gesù che ci mette il suo zampino per far uscire Pazzo Cicillo, non è contento e noi non facciamo la trasmissione. Bene, siamo i Mozilla Bros, siamo su Radio Ciroma 105.7, in streaming su www.mozillabros.com e su radiociroma.org. È in replica anche su Radio Transizioni Fase, perché finalmente Natale ci ha dato l'accesso, sì, al sito. Abbiamo, Cicci, cosa abbiamo? Il potere. Abbiamo l'accesso a Matrix. A Matrix, quindi se volete entrare in Matrix potete contattare Ciccillo presso l'aula P2. Come no? Parla nel microfono, che così i nostri ascoltatori ti possono sentire le cazzate che dici. No, allora, vabbè, le novità importanti che riguardano il sito sono che finalmente possiamo mettere i podcast. Abbiamo i podcast, finalmente. Potete riascoltare le nostre vecchie cazzate da ottobre ad oggi. Siamo passati a una piattaforma che si chiama archive.org, che appunto si occupa di raccogliere questi progetti che miliardi di persone decidono di rendere pubblici completamente in condivisione con gli altri. Miliardi. Sì, miliardi, siamo 6 miliardi. Che cazzo, almeno un miliardo e uno ci sarà, quindi siamo miliardi. Magari siamo 999 milioni, cioè insomma. Vabbè. Più il figlio tuo che sta per nascere. Siamo ma anche no. comunque. Sì, siamo noi, siamo in Mozilla Bros, siamo tornati finalmente. Ospite speciale di oggi, Murphy, con la sua legge. Esatto, la legge di Murphy infatti è un insieme di detti popolari che nella cultura occidentale, a carattere ironico e caricaturale, si possono idealmente riassumere nel primo assioma, che in realtà è proprio la legge di Murphy vero e proprio, che sarebbe: se qualcosa può andare male, lo farà. Come si vede che stiamo leggendo la Wikipedia, eh? Esatto, come le nostre fonti, Cici. Cioè, il classico esempio era quello del toast che cade sempre dalla parte imburrata, oppure quello che la trasmissione dovrebbe cominciare in orario, in realtà non comincia, perché noi, sebbene noi siamo qua a Radio Ciroma da ben mezz'ora e passa, come buon costume vorrebbe, abbiamo iniziato solo con un quarto d'ora di ritardo perché Gesù ci ha dato... Ciao. Esatto. E mentre diciamo queste fantastiche cazzate, potete ascoltare in sottofondo un fantastico boogie di un tizio che non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama il CD, tranne che forse riguardava il settimo anniversario del boogie. Un signore che è venuto a suonare a Rossano, l'ho conosciuto, però non mi ricordo neanche la sua faccia. Vediamo che grande Alzheimer. Eh sì, vabbè, sono cose successe. Solo notizie certe dai Mozilla Bros. Sì, esatto. Siamo ritornati. Siamo dimezzati rispetto alla trasmissione passata, che c'ero solo io. Comunque abbiamo rinfoltito le fila dei nerd. Infatti sarà una puntata prettamente nerd questa qua. Come sempre. Come sempre, il cazzo. Ci mancano i nostri altissimi compagni, altissimi, cioè, 4.000 contatti. 4.000 contatti che dovrebbe essere al mio fianco a spronarvi a suon di blues. E ci manca anche quel pazzerello di Garulf che ha la febbre. Ha la febbre, e la febbre ha deciso di provare l'omeopatia, quindi tornerà verso aprile probabilmente. Quando farà più caldo, quindi sì, dopo che la primavera si sarà assestata. Dalla regia Cicillo mi fa segno, o gli faccio io segno, di far partire il prossimo pezzo. Questo è un pezzo consigliatomi da un ascoltatore di Ventura, Paolo. Paolo Ventura? No, Paolo Bip cognome. È un ragazzo che ha suonato pure quella volta, vabbè, insomma, lo conoscete benissimo. È John Scofield questo che metteremo, con Chunk. È un pezzo jazz, funk, insomma, non proprio il blues dei Mozilla Bros. Ma lo dedichiamo a Murphy e a Gesù. Esatto. Thank you. E questo era John Scofield, un ottimo, grandissimo chitarrista jazz. Infatti noi Mozilla Bros non possiamo solo blues, chiaramente vi forniamo anche la vitamina J, la vitamina F e la vitamina R, che sarebbero jazz, funky e rock and roll. Questo... Come sei professionale, quando te le inventi? Escono spontanee? No, in realtà mi ricordo che Natale disse questa minchiata l'anno scorso. Comunque, però noi aggiungiamo anche la vitamina K, che lasciamo a voi capire cosa sta per K, diciamo. Comincia con KCR, vero? Sì. Dunque, questo era quello che avete appena sentito, era John Scofield, che è un grandissimo chitarrista jazz, appunto. Tanto, tanto grande che suona addirittura con Gary Mulligan, autore del famosissimo brano Take Five. Negli anni 80 suona addirittura con Miles Davis, che dovete conoscere, se no, se ci state ascoltando e non sapete chi è Miles Davis, andatevi a fare una cultura. Questa canzone parole tutta... grosse. Sì, esattamente. Questa canzone tuttavia viene da uno degli album che lui stesso preferisce. L'album si chiama A Go Go. No, è vero, è inutile che fai quella fa. A Go Go. Che ha suonato con uno che si chiama Medeski, cioè un grandissimo organista, se non sbaglio. Bene, questo, niente di particolare. Questo era John Scofield. Adesso passiamo al nostro news nerd, perché sto parlando troppo, diciamo. No, ci piaci quando parli troppo. Ok. Però ovviamente questo non è solo un programma di musica, ma è anche e soprattutto, dai, diciamolo che è soprattutto CC, vero? Programma religioso, adesso lo possiamo dire, dai. Sì. Ebbene sì, dopo un anno di trasmissione buttiamo giù la maschera. Però prima di passare al Cristo, Visto che stiamo parlando di maschere, cosa ci viene in mente pensando alle maschere e al nerdismo? Gli Anonymous. Esatto, non Carnevale, gli Anonymous. Infatti se andate su qualche strano sito, tipo quella di Paola Binetti, potete vedere una dedica. Però no, no, no, non ci spoileriamo. Non spoileriamo. Okay. Perché praticamente in questi ultimi giorni gli Anonymous Italia sono ritornati, diciamo, alla ribalta con alcuni defacciamenti. Praticamente il primo è stato... Solo quello... una cosa, ti interrompo giusto un attimo per dire che, visto che abbiamo parlato di religione, il cantante che state sentendo in sottofondo si chiama Ronnie James Dio. Non sto scherzando, è proprio Ronnie James Dio, che poverino è morto di recente. E non come diceva Dio Nietzsche. È morto, sì, proprio. Però Nietzsche lo diceva nel 1800, adesso siamo... cioè è morto negli anni 2000. Purtroppo è stato un grandissimo cantante. E lo salutiamo con questa canzone. Ciao Dio. Comunque, riprendendo la news nerd, praticamente il sito del... Onorevole Cicci. I grandi temi si autodefiniscono così, quindi dai. Facciamoli felici. I grandi temi sollecitano non soltanto la nostra intelligenza, ma anche la nostra coscienza. Hai finito di cacare la minchia all'altro lato? Ti chiudo il microfono. Io sono in regia, non so se si è capito. Comunque, dicevamo per l'ennesima volta, il sito dell'onorevole Paniz è stato appunto defacciato. Come mai? Perché il sotto appunto pressione e denuncia di questo grande onorevole, il giudice delle indagini di Belluno, un certo Aldo Giancotti, ha pensato bene di portare alla chiusura dell'intero portale dedicato alla strage del Vajont, il sito appunto www.vajont.info. E la colpa di cui si era macchiato questo sito, che raccoglieva una miriade di documenti importanti e molto interessanti sulla strage del Vajont, è stata la scritta che: e se la mafia è una montagna di merda, i Paniz e gli scilipoti sono guide alpine. Che cosa, cioè, so? Non c'è nulla da aggiungere a una definizione del genere. Beh, quindi diciamo hanno ripreso la famosa frase di Peppino Impastato, aggiungendo guide alpine, sì. Questa cosa a quanto pare sembra essere riconducibile a quel odioso crimine di diffamazione, e quindi praticamente il giudice ha ordinato il sequestro, la chiusura dell'intero portale. Ovviamente, visto che siamo in Italia, Il filtro che è stato fatto è stato sull'intero IP del server, quindi insieme a www.vaillant.info sono stati chiusi per, diciamo, un classico effetto collaterale, più o meno altri 3000 siti che erano ospitati sul server. Sì, perché non sanno bene come funziona l'hosting e tutto quello di virtual server e quello che ci sta dietro, diciamo. Sì, dato che giocano a Nozzle tutto il tempo. Esatto, e quindi diciamo gli Anonymous... che comunque da sempre, da quando sono nati, hanno avuto a cuore la libertà di informazione e la libera circolazione delle notizie, hanno ben pensato di, che se l'onorevole Panitz chiude un sito come quelli, anche il suo sito poteva essere temporaneamente chiuso. Tra l'altro, ovviamente, senza entrare nel merito dell'idiozia di oscurare un sito per un qualcosa di simile, tra l'altro un sito di informazione. Pensavo l'idiozia di Panitz e Scilipoti. Oltre all'idiozia di Panitz e Scilipoti, che a quanto pare non conoscono il cosiddetto effetto Barbara Streisand, che praticamente deriva dal fatto che una volta questa signorina Streisand aveva fatto Streisand, Barbara Streisand, quella là, aveva fatto chiudere questo sito che mostrava delle foto aeree della sua villa. Beh, allora da quel momento in poi, quando magari prima nessuno andava a cacare quel sito con le foto della villa, visto che era stato oscurato, tutti a un certo punto hanno deciso di andare a vedere quel sito, andare a vedere, andare a replicare le informazioni, eccetera eccetera. La stessa cosa ovviamente è venuta fuori per l'onorevole Panitz, che non ha altro ottenuto che, oltre ad avere il sito defacciato, un enorme eco e ampliamento della notizia. E tra l'altro il portale vaillant.info è ancora raggiungibile, basta usare un semplice proxy. Per esempio, se andate su hide my ass, nascondi il mio culo, il mio culo, esatto, giusto per farne il nome di uno, e appunto scrivete il www.vaillant.info, è perfettamente raggiungibile. Piccola nota, anche se ci andate da Google Translate. Sì, probabilmente sì. Cioè una di quelle censure stupide che non servono assolutamente che a non nulla. Non funziona. Nota per i viaggiatori, però il sito vaillant.info rimanda a un certo JavaScript, perché a quanto pare un worm si è riuscito a installare su quel sito. Quindi forse il vostro antivirus potrebbe darvi un po' di noia. Però visto che non lo potete raggiungere direttamente, magari potete semplicemente, usando Hide My Ass, bloccare gli script e quindi essere tranquilli anche da questa cosa. O con Tor, no? Sì, però è a livello di browser, quindi comunque devi avere uno script o qualcosa, sì, sì, che ti blocchi lo script. Ma d'altronde i nostri ascoltatori non usano Windows, quindi non avranno antivirus. Infatti sono, sì, sono deprecati, quindi hai detto una cosa praticamente inutile. Vabbè, però non si sa mai. Vabbè, tra i siti defacciati c'è anche quello di Paola Binetti. Ok, se ne parla dopo, chiaramente, di Paola Binetti. No, quello sta dicendo no. Comunque, vabbè. È l'improvvisazione. Sì. Però, visto che secondo me forse abbiamo parlato un po' troppo in stile ci sta, ci sta un pezzaccio che, se non sbaglio, è dedicato, vero? O no? Un pezzaccio che era dedicato, no. Era Kickapoo quello che era stato di sfondo, aspetta. No. Sì. L'abbiamo passato come sfondo. Eravamo rimasti così. Lo giuro, arbitro, lo giuro. No, okay, il prossimo pezzo è andato. Il prossimo pezzo invece, no, sto scherzando. Il prossimo pezzo è appunto una dedica, visto che ormai con Natale riusciamo a sentirci solo via etere. Ci ha chiesto se cortesemente potevamo mandare una canzone. Non possiamo certo che accogliere le sue richieste, visto che, insomma, è il guru di questa trasmissione. E quindi il guru sul cammello, diciamo. Questa è Black Betty di Led Belly. Ciao Natale! Bam bam lam, oh Black Betty, bam bam lam, Black Betty, Black Betty, bam bam lam, Black Betty, Black Betty, bam bam lam, jump sturdy Black Betty, bam bam lam, jump sturdy Black Betty, bam bam lam, oh Black Betty, bam bam lam, oh Black Betty, bam bam lam, looky on a Black Betty, bam bam lam, looky on a Black Betty, bam bam lam, turn around Black Betty, bam bam lam, jump down Black Betty, bam bam lam, oh Black Betty. We'll be right back. Vabbè, giusto perché Murphy non era qui in regia da 10 minuti, ha pensato bene di sabotare il pezzo che avevamo dedicato a Natale, facendo saltare direttamente al successivo. Vabbè, questi sono i Beatles, dai. Tempesta di legge di Marte, proprio. Cioè, Dio si sta accanendo con la violenza. Per citare il Cristo, no? Razzing, parte Razzing. Va bene, erano un misto tra Beatles, che quello di prima, che non mi ricordo come Led Belly, Led Belly. A proposito di Led Belly, Natale mi aveva chiesto un'altra canzone, China Town, ma non sono riuscito a scaricarla, a procurarmela. Scaricarla, diciamo, si dice scaricarla, ci impara, scaricarla. Perché noi scarichiamo tu tubo non c'era. Su tubo non c'era. Sì, sono quelle canzoni che tipo solo Natale in tutta la faccia della terra. E chi le ha prodotte? No, soprattutto la motivazione per come aveva chiesto Jonathan, ha detto che ultimamente sto vedendo solo cinesi. Quindi voglio dire, probabilmente è stata una motivazione. Forse perché razzismo più. No, forse perché da Milano si è trasferito a Pyongyang. Non è vero. Dunque, quella canzone dei Beatles che abbiamo appena ascoltato è una canzone che viene direttamente da ieri sera. Perché praticamente ho deciso di portarla in scaletta, dato che parlando con un altro chitarrista di Petronà, l'amico del Paolo di prima, Stefano, che è anche amico nostro, si parlava appunto dei Beatles, di Strawberry Fields, e appunto questa canzone è stata concepita da John Lennon proprio mentre giravano le riprese per il filmato di Strawberry Fields, un'altra canzone dei Beatles. L'ispirazione prorompente, diciamo, viene direttamente da un manifesto del XIX secolo riguardante un circo. Adesso ti vengo lì e ti spezzo le gambuzze. Niente, il circo di un certo Pablo Fanque. Ma tutto il resto fa da sé. Non conosce la paura di italiane. Che cos'è? Cioè, sta canzone è allucinante. Sì, sebbene all'inizio John Lennon non fu soddisfattissimo della canzone, poi negli anni 80 si ricredette. Infatti la descrisse come una canzone pura, addirittura un dipinto meraviglioso, un meraviglioso acquerello. La droga, quindi, eh? No, in realtà proprio ciò che di cui non voleva parlare John Lennon era proprio della droga. Poi non so se crederci o no, però io mi fido di John Lennon, dai. Anche perché poverino è morto. Vabbè, pure Hitler è morto, ma cazzo, no, che comunque dai. Rientriamo in nerdismo, diciamo, dopo questa parentesi. A gamba tesa. Sì, a gamba tesa, anche se io non riesco a essere serio sentendo il grande Ratzinger in sottofondo. È più forte di me. Scusami, perché... quando mai sei serio tu? No, vabbè, ma proprio mi viene a ridere. Comunque no. Torniamo sull'argomento di cui avevo anticipato Ono, che appunto gli Anonymous stanno facendo un putiferio praticamente in giro per la rete, almeno in Italia sicuramente. E la domanda che ci si pone è che, ma chi sono questi Anonymous? È possibile che per esempio il sito di Paola Binetti sia stata defacciata dagli Anonymous originali? È possibile che esistano degli Anonymous originali? No, ovviamente non è così. Ma scusa, Anonymous... non c'hanno il copyright, quindi sono appunto, tutti originali. Stavo proprio per arrivare a questo. Gli Anonymous non sono un collettivo definito, non esiste un consiglio d'amministrazione degli Anonymous, sono semplicemente... Nemmeno un Comintern. appunto. Questo lo dici tu. No, credo che non ci sia un comico. Questo lo dici proprio tu. No, questo lo sarebbero stati gambizzati dopo quello che è successo. Ah, è passato un comico e se ne fa un altro. In ogni caso, non esiste una linea. C'è semplicemente quest'idea di riappropriarsi della rete e usarla per il bene collettivo. E laddove vengono viste delle ingiustizie o dei soprusi, oppure delle idiozie, come nel caso di Panis, fatte nei confronti della collettività, si decide di scendere in campo. Non esiste appunto, non è che ci si mette d'accordo, a parte quei gruppi che magari sono più organizzati e si firmano come Anonymous, ma chiunque di noi può firmarsi come Anonymous nel momento in cui fa un'operazione del genere. Sì, però per esempio tra questi gruppi c'era un gruppo attivissimo nell'anno scorso, l'Ulzec, se non sbaglio, che molti di voi conosceranno sicuramente per le sue... Sì, ma il punto è che per questa sua natura a mo' di sciame chiunque, qualsiasi gruppo può fondersi, entrare, uscire, quindi diciamo l'identità appunto non è una parola che può essere associata appunto al gruppo Anonymous. Anche perché sarebbe una ciotia associare un'identità, cioè se sai chi sono, perché cazzo, che senso ha una cosa del genere? Io parlavo di identità pseudo capisci? Crista. No, lo so che vuoi dire, ma in ogni caso è qualcosa magari... che è riconducibile a delle persone poi alla fine fisiche, no? Cioè no, ma anche come modus operandi, come gruppo. Insomma, un identificativo, un profilo, se così possiamo dire. Profilo, bravo. Profilo. L'ho già detto prima, non c'è una linea che viene seguita da queste... Esatto. Chi fa questo processo e si firma come non. Come si dice da queste parti, a cazzo di cane. Sì, diciamo che possiamo tradurre la cosa molto alla buona a cazzo di cane. In realtà, se ognuno... Cioè, chi di noi si sente di fa... Perché badate bene che ho detto chi di noi. Cioè, non è che esiste un divario fra noi e voi. Chi di noi, appunto, che fa parte della collettività... sente di aver subito o che la collettività abbia subito un sopruso, può decidere di operare sotto questo nome perché non è di nessuno ma è di tutti. Può anche decidere di chiamare Razzing per portare giustizia. Se poi magari lo fa in chat nei canali a cui appunto queste persone si incontrano, magari troverà chi è disposto a dargli una mano. Sì, sicuramente questo. Vabbè, sul sito di Paolo Abbienti comunque c'è una bellissima frase che dice: noi siamo Anonymous, abbiamo deciso di lanciare un Fuck Politicians February, ossia vaffanculo, un febbraio di vaffanculo ai politici. Sì, per esempio, ecco, giusto per chiarire, questa cosa sul sito ufficiale non compare ufficialmente. Ma perché non c'è nulla di no, ufficiale. No, perciò, questo voglio dire, cioè chiunque Anonymous è nessuno alla fine, insomma... Sì, appunto l'FPF, il Fuck Politicians February, è il nostro modo di per dirvi che ci avete rotto i coglioni. And you know you better surrender. Ooh, slip and slide, peeping in a hot. Gonna be a fool no more. Get it on. E abbiamo in linea il nostro compare Garulfo. Ci senti? Amatissimo Garulfo. Ehi, ci senti? Ci sei? Gli abbiamo chiaramente Marco. Demonio, ci senti? Dio? Ci sei? Sì, salve, qui è Murphy che risponde. Pronto? Non serve premere a caso tutti i tasti del mixer per far rispondere Garo. Oggi segno proprio finito, vi giuro. Peeping at the hop, been told a long time ago. Yes, I've been told, baby, you both ain't gonna be your fool no more. Finalmente Dio c'è il nostro gara. Interno. Finalmente. Prova. Sì, sì, ci sei. Ci senti? Ci sono? Uno, due, tre, viva la Siria, ci sono? Viva la Siria, ci sei. E che va, la legge di Murphy oggi imperverà su di voi. Imperverà si dice, vero? Non si dice manco per il cazzo. Ma che dite, no? È uno degli effetti proprio collaterali dell'omeopatia, dire parole senza senso. O della febbre. Ecco, io ho chiamato soltanto per difendere la mia cura omeopatiche, che mi ha fatto già guarire in soli 3 giorni. Grazie all'Eupatorium Perfoliatum. Ma tu non sei guarito però, aspetta. Allora, io sono quasi guarito. Sì, in 3 giorni soltanto. Ho qualche strascico di febbre e un po' di mal di testa, diciamo così. Lebbra, niente. Ma mi sento bassissimo comunque. L'omeopatia. Non vorrei rubare le vostre doti tecniche in regia, assolutamente. Mi sa che l'omeopatia omeopatia ti ha portato forse questo abbassamento dell'udito. Ma non è che l'onopatia? No, l'omeopatia di solito ne fa uso a Natale, no? Sì, Natale è per curare l'omofobia, sto cercando l'omopatia, ma è per curare l'onopatia? Vabbè, comunque, visto che state tanto parlando di Anonymous, è una bufala in giro, a quanto pare. Ormai gli Anonymous fanno anche le bufale. Quale? Cioè quella che vorrebbero spegnere internet. Spegnere internet. Dai, però era una bufala ben costruita. Sarà però una bufala? Non sarà una bufala? Però diciamo che forse il fatto che la data era proprio il 1 aprile... cioè il giorno prima del 1 aprile per l'attacco ha fatto sospettare molti. Ma poi mi togliete una curiosità, una curiosità. Vabbè ragazzi, io vi saluto perché no, di no, là no, mi aspetta, chiamano. Aspetta. Non ci hai detto cos'è l'omeopatia però. A chi? L'omeopatia, non ci hai detto cos'è, cioè, te ne allora guarda, è proprio la definizione non lo so, però sono sicuro che tipo mio zio mi dice, mi chiede cos'ho e poi mi dà dei pilloli bianchi da prendere ogni 3 ore. Succede anche nei rave questa cosa. Qualcosa da a vedere con le piante, qualcosa del genere. Questo secondo me non dovevi dirlo in radio. Comunque, come sempre, dai Mozilla Bros solo notizie certe di prima qualità. Certo. Ora vado perché mia madre vuole che mangi e qua sono abbastanza categorico. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao Garul. Toglietemi una curiosità, ma se si spegne internet, poi come facciamo ad avere internet per sapere perché non abbiamo internet? Non possiamo, senza internet non potremo, come South Park ci insegna, non potremo mai sapere perché non c'è internet. Mannaggia il demonio. adesso il momento che tutte le trasmissioni radiofoniche ci invidiano, vale a dire le news idiote. Che è una nuova rubrica che abbiamo lanciato oggi. Perché non sapevamo che cazzo di... No. Ok, dopo questo bellissimo jingle, parliamo oggi di una cosa sensazionale. Abbiamo visto che, diciamo, gli smartphone stanno invadendo la nostra privacy, o privacy che dir si voglia, in tutti i modi. Tu ne hai tre o quattro, sì, smartphone. Avevate pensato che potevate andare in bagno senza che il vostro smartphone facesse qualcosa per voi? Ebbene, qualche genio ha pensato di mettere in produzione uno spazzolino che si collega al vostro smartphone e vi dice per quanti minuti vi siete lavati i denti in un giorno. Cristo. È utilissima. È utilissima, non lo so che chi cazzo se la scaricherà questa app e chi si comprerà lo spazzolino. Io. Ma tu non hai lo smartphone. Lo comprerò apposta, ovviamente. Comprerai proprio lo smartphone per comprarti lo spazzolino. E comunque mi hai fatto venire in mente una cosa a proposito, sempre per rimanere in tema di smartphone, che non fa nulla quando non andate in bagno. Non è vero, perché per esempio il nostro carissimo amico, nonché uno dei fondatori dei Mozilla Bros, ovvero Technoraver, aveva sviluppato già anni or sono un'app fenomenale, fantastica, che ha un sacco di download e che può essere molto utile, che è il Masturbator Pro. Che... No, giusto per dire, questa cosa esisteva prima che uscissero gli smartphone, eh? Esatto, sì, infatti l'aveva sviluppata anche per Nokia. E addirittura ai primordi di questa tecnologia del Masturbator Pro era controllabile tramite Bluetooth. Fantastico. Mentre adesso, con tutta la potenza degli smartphone, potete controllare la vibrazione del vostro telefono o del telefono del vostro partner anche a distanza. Quindi non è la prima applicazione da usare in bagno. No, però voglio dire, questa qui di Technoraver sicuramente è più utile. Non è detto che si usi solo in bagno. Oltre a essere notevolmente più utile, perché che cazzo te ne frega di quanti minuti ti lavi? Che cazzo me ne frega? Ma io c'ho il diesel. Comunque, dopo questa ottima idiozia, passiamo al prossimo pezzo. Dai, lanciamo un pezzettino. Un pezzaccio. Un pezzaccio, sì. No, pezzettino nel senso come brevità. Fai tu, no? Fai tu e fai tutto. Altrimenti nerdiamo e poi passiamo il coso. Metti il pezzo, metti il pezzaccio. Questo è un pezzaccio rock. There once was a woman, a strange kind of woman, the kind that gets written down in history. Her name was Nancy, her face was never fancy. She left the trail of happiness and misery. I loved her, everybody loved her. She loved everyone and gave a good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't for taking what you ever learn. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. She looked like a raver, but I could never please her. On Wednesday mornings, boy, you can't go far. I couldn't get her, but things got better. She said, Saturday nights from now on, baby, you're my star. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. Noi siamo i Mozilla Bros, siamo ritornati in onda dopo che Murphy ha premuto il pulsantino. No, diciamo che questo è un nuovo gioco. Se voi volete sentire una canzone per intero, dovete comprarvi il CD. Maledetti schifosi che vi scaricate le canzoni da internet. infatti questa è la puntata pro copyright. Sono felice di poter dire che questo CD che state sentendo di sottofondo è proprio un CD comprato, affanculo, però è estratto. Lo vedi che cosa vuol dire comprare il CD? Sì, che puoi sentirti la ma le canzoni che ti ho passato sono tutte quante valide, perché le ho ascoltate prima di passartele. Ma sono è inutile scaricate. Che mi guardi così. Sono non è bello, ma che ne sai? Ecco. Le ho passate dal vinile al CD e poi... Però c'è da dire che gli sfondi funzionano. Guarda com'è bello sto sfondo. Bene, bene, bene. E sfruttiamo questo intervento in gamba tesa di Murphy per tornare alle news, pseudo news, nerd. Alle informazioni nerd. Comunque la canzone che avete ascoltato prima, giusto per dare un minimo di continuità anche al blues e al rock, era Strange Kind of Woman dei Deep Purple. E per tornare anche al discorso di prima del Masturbator Pro, questa canzone si doveva chiamare Prostitute. Va bene. Bene. Sono sempre info utili. Bene, bene, bene. Piccola news nerd. A quanto pare qualche settimana fa l'Iran in vista come si dice quella cosa che è tipo il compleanno, però non è il compleanno, anniversario, bravissimo, che sei un ignorante e non sai le parole. No, è la stanchezza, sì, è vero. Dell'anniversario della rivoluzione islamica, ha ben pensato di praticamente bloccare tutto o quasi il traffico SSL che usciva dall'Iran. Ora, cosa implica questa censura? Diciamo che è un po' come bombardare con, non lo so, una bomba atomica per disboscare una foresta, però... O per pulire il giardino di casa, eh. Infatti sì. Diciamo che questo, praticamente, il protocollo SSL, avete presente quando vi collegate alla vostra posta o in qualsiasi posto serio dove dovreste inserire credenziali e vi esce quel lucchetto accanto al browser? Bene. E solitamente la barra dell'indirizzo diventa di un sicuro verde o di un sicuro blu. Oh, ma se non diventa sicuro, vedete di farcelo diventare voi in qualche modo, perché altrimenti sono cazzi. I vostri dati viaggiano in chiaro. Esatto, SSL serve proprio a evitare che i vostri dati sul web viaggino in chiaro attraverso la crittografia. Ora, bloccando tutto questo tipo di traffico, praticamente oltre a bloccare l'accesso a siti come Gmail o Facebook o Twitter eccetera eccetera, hanno anche bloccato l'utilizzo della rete Tor, che comunque fa uso di questo protocollo per instaurare le connessioni. Per chi non lo sapesse, la rete Tor, vi ricordiamo, è una rete distribuita e decentralizzata che serve a garantire l'anonimità, l'ho anonimato, sì. Sì, mi sa che anch'io un po' omeopatico oggi. No, dovresti andare semplicemente da un dottore. Da un logopedo. No, dovresti tornare alla prima elementare. Bene, offesa in hard a parte. Stavo dicendo qualcosa del tipo che la rete Tor appunto garantisce l'anonimato a chi la usa. Però non si è fatta attendere la contromisura da chi appunto sviluppa e gestisce questo tipo di servizio, ovvero la comunità Tor, che ha subito tolto dal cassetto un programma in alfa, diciamo, che quindi era ancora in fase di sviluppo, che però ha fatto benissimo il suo lavoro, che sono appunto i bridge offuscati. Praticamente attraverso questi bridge offuscati, qui indirizzi poi sono stati passati, diciamo, persona a persona agli iraniani. Scritti a mano su un foglietto di carta. Con un piccione viaggiatore. No, vabbè, magari attraverso chat o altri canali un po' meno controllati. Hanno permesso appunto agli iraniani di aggirare questa ennesima censura da parte del governo di Teheran. Ricordiamo a tutti che Tor, in quanto essendo un network decentralizzato, possiamo dire gestito appunto da chi fa parte di questa rete. Quindi, oltre ad usarla, voi potrete benissimo impostare il vostro computer per far passare il traffico di altre persone attraverso la vostra connessione, quindi dare più banda. Oppure appunto, se magari avete anche un indirizzo statico, quindi non una DSL che ogni volta che riavviate il router cambia indirizzo IP, potete installare questo tipo di bridge offuscati, di proxy offuscati, per mettere appunto agli iraniani o comunque ancora in quei paesi in cui questo tipo di censura può essere all'iraniano medio, diciamo. All'iraniano medio, appunto, di continuare a collegarsi a internet in barba alle varie censure governative. Sempre in tema di censura e attacco alle libertà digitali, una flash news seguita da un'altra micro flash news che sono riguarda... quelle che si mettono nel computer per scaricare le foto. O quella nel computer o nella macchina fotografica. No, comunque, una piccola notizia, giusto perché ho trovato divertente il gioco di parole che ci si può fare, diciamo. È stato... E Mozilla Bros, solo notizie per motivi importanti. No, allora, esiste in Inghilterra un'organizzazione, anzi un'agenzia, che si chiama Serious Organized Crime Agency, il cui acronimo è appunto SOCA. Adesso... di questo c'è anche un'associazione americana che è appunto... Che è appunto l'ANUS, American Nihilist Underground Society. Comunque, tornando al SOCA, questa agenzia aveva pensato bene di chiudere un blog perché dicevano che questo blog ospitava appunto dei collegamenti a contenuti che ritenevano illegali e pertanto bisognava oscurare questo sito. Se non che SOCA è stata costretta in questi ultimi giorni a fare passi indietro. Quindi, diciamo, facendo un semplicissimo cambio di vocale, fate voi, diciamo, completate voi la frase. Io vi dico solo che nella seconda posizione è la vocale da cambiare. Il classico compro una vocale del giro la ruota, insomma. No, l'ennesima prova che ci sono questi tentativi diffusi ormai. Io riflettevo a proposito della rete Tor, della notizia che è girata poi appunto riguardo l'Iran. Ormai sta diventando quasi sempre più difficile riuscire a navigare in maniera sicura, anonima, ma diciamo anche riuscire a navigare vedendo i contenuti che ognuno vuole. Quindi è necessario in ogni caso sostenere quelli che sono i progetti sviluppati da queste comunità di programmatori, ad esempio Tor. Esistono anche altre alternative, varie darknet che si sono create in giro per il mondo e nel giro degli anni, diciamo. Come sta ambientino? Una poco dark, potremmo dire. Darknet. La cosa principale è che se ognuno di noi mettesse a disposizione un poco della banda che ha a casa per favorire appunto il funzionamento di questi relay bridge offuscati, daremmo la possibilità a quelle persone che purtroppo vivono in regimi dichiarati, non regimi come il nostro, dove appunto non è più possibile nemmeno navigare in santa pace senza che ti spino oppure che non ti impediscano proprio fisicamente di navigare, rendiamo un servizio a noi stessi e all'intera comunità. In ogni caso, il nostro invito è comunque utilizzare quelli che sono gli strumenti che appunto ci mettono a disposizione, come la crittografia, plugin di Firefox, quali SSL Word, per esempio, che è stato scritto da alcuni poveri tra pazzi, i presenti. Alcuni poveri pazzi che appunto forzano le connessioni SSL per mantenere un grado di privacy sicuramente più elevato. Insomma, cioè, è importante non dare per scontato che internet come ce l'abbiamo ora sarà l'internet che avremo anche domani, e quindi dovremo essere anche pronti e preparati a migrare su altri tipi di rete, oppure appunto a essere pronti a saper aggirare i vari tentativi di censura che ogni giorno escono fuori. Vabbè, credo sia proprio l'ora di un pezzaccio. Sì, andiamo con John Mayer. Va benissimo. Se va. asking all for mercy, so help me if you can. I went down to the crossroads, tried to flag around. Ancora non è saltata la canzone. Questi erano i Mozilla Bros con una canzone per intero. In effetti l'abbiamo stoppata prima, ma non fa niente. Abbiamo? L'abbiamo stoppata noi prima, ma... Proprio per puro caso. Per non dare soddisfazione a Murphy. Non solo tu sei in grado di stoppare le canzoni, caro mio. Dunque, questa è una canzone non di John Mayer, ma di Eric Clapton. E mi sento in dovere di dedicarla al nostro altissimo angle, Andrea Blues, che purtroppo non è potuto venire a causa... L'altissimo. L'altissimo, esatto. Il 4000esimo angle. E questo pezzo è stato riproposto da un giovane chitarrista blues che stranamente ha avuto proprio il coraggio di suonare blues. Strano, perché ha avuto anche molto successo. Infatti ultimamente suona, lo si vede in giro con Clapton, fa bei pezzacci e riprende lo stile pure un po' di Jimi Hendrix, nonché dello stesso Clapton. E... Bene, sì, ritorniamo alle news nerd. Rimaniamo sempre in tema di blog. Questa volta ci spostiamo da un'isola felice quale l'Iran, potremmo dire, a un'altra isola felice. Cazzo. Quale appunto la Siria, dove durante degli scontri che ci sono che stanno attraversando il paese in questi giorni, uno dei blogger più famosi del momento, diciamo, che trasmetteva appunto i video di questi momenti drammatici e concitati che sta vivendo il suo paese, è stato prima ferito gravemente e poi non è riuscito a sopravvivere durante il tragitto che lo portava in ospedale. Ovviamente diciamo che la piattaforma da cui il ragazzo postava i suoi video in streaming, Bamboozer, era già finita, diciamo, tra quelle che sono le perfide grinfie dei censori, e infatti era già stato effettuato un tentativo di oscuramento di questa piattaforma, proprio perché appunto ostile all'autorità. E anche perché, diciamo, che visto che i giornalisti o i media tradizionali sono stati totalmente banditi dal paese, l'unica appunto fonte di informazione sono questi ragazzi qua che appunto con i loro smartphone o le loro videocamere riuscivano poi a mandare online la diretta delle proteste. Sì, diciamo che se abbiamo delle immagini di quello che sta succedendo in Siria, lo dobbiamo semplicemente usarci, che cazzo conti, ogni tanto un lapis può succedere, catanominato, no? Un lapis. lo dobbiamo semplicemente sì, al lavoro volontario, assolutamente. E soprattutto pericoloso, perché come, cioè, questo qua ci ha lasciato le penne. Sì, ci ha lasciato le pennette, però diciamo ha reso un servizio sia al suo paese che ai suoi, appunto, ai suoi concittadini, che a tutti noi, e ci permette di capire quello che sta succedendo senza filtri in nazioni quali appunto la Siria. E così possiamo anche magari renderci conto che mentre quei cosi farlocchi inutili tipo l'ONU sono tanto fatti portatori di pace e democrazia in paesi come la Libia, perché poi magari ci stavano interessi economici dietro, possiamo tranquillamente continuare a guardare questi video dove migliaia di persone vengono massacrate mentre i nostri rispettivi governi eccetera eccetera non fanno assolutamente un cazzo di niente. Che notizie rassicuranti sono quelle che diamo dalla Siria, ai nostri ascoltatori. Dalla Siria ne arrivano anche altre notizie rassicuranti. Infatti è proprio di qualche giorno fa la scoperta di un nuovo malware, un virus, nella fattispecie diciamo un Trojan, che il governo siriano appunto aveva sviluppato, modificandone, poi è uscito fuori un altro già esistente, per prendere il controllo dei computer dei vari attivisti siriani. Porca Trojan. Sempre questo umorismo nerd dall'altra parte del vetro. Praticamente quella dello specchio. Già. Praticamente scaricando quella che all'apparenza sembrava un'innocua foto, il computer veniva appunto infettato. E da quel momento in poi iniziava a inviare un sacco di informazioni a questo centro di controllo siriano, fra cui anche immagini della webcam o i tasti premuti sul computer. Praticamente la cosa interessante è che nel momento in cui è stato scoperto questo virus ed è stato analizzato, era uscito anche fuori l'indirizzo IP, che non era stato offuscato in nessun modo, di questo centro di controllo siriano, che rimandava appunto a una macchina di un provider siriano, macchina che sembrava anche essere abbastanza vulnerabile, era stata mal configurata, infatti si riusciva anche ad accedere per esempio alla rete interna attraverso un proxy squid configurato male. Comunque poi gli agenti di Telecomics, quest'altro gruppo sciame di attivisti online, era riuscito a fare appunto ingegneria inversa di questo software, quindi sviscerarne tutte le particolarità. Questo virus adesso comunque ben noto, viene rilevato dagli antivirus, e comunque in Siria si è diffusa molto la notizia. Comunque quel centro di comando e controllo, come appunto vengono chiamati, sembra essere al momento sparito dalla rete. Stiamo per concludere la trasmissione, come al solito un po' in ritardo. Siamo come al solito i Mozilla Bros, come ogni mercoledì alle 7 e qualcosa su Radio Cinema. Stasera, ricordiamolo, in missione per conto di Murphy. Sì, no, vabbè, infatti stasera eravamo in trasmissione, ci mancano Andrea e Garolf, però ci è venuto a trovare Murphy. Quindi un saluto da Ono, uh-huh. da Cicillo, da Murphy. da Murphy, Cristo, e da Lorenzo. E da Lorenzo. Lorenzo Blues. Col prossimo pezzo, che è un pezzaccio di Scott Henderson, un chitarrista jazz blues che forma il suo stile sulla forma di grandissimi chitarristi come Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Albert King e anche Buddy Guy, fino ad arrivare a Buddy Guy. Quindi abbraccia una grandissima vastità di stili. Vi lasciamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio Ciroma 105.7 alle 7. E ricordiamo anche che siamo in replica su Radio Transizione di Fase, stavolta davvero, visto che metteremo i podcast sul sito, saranno pure il lunedì verso le 20. Sì. E poi dovremmo essere anche su Fuori Onda Radio il venerdì alle 4, se non sbaglio. Devo controllare lo script Crontab che c'è in aula. Speriamo che funzioni. Un saluto di nuovo dai Mozilla Bros, alla prossima settimana. Scott Henderson. Ciao Gesù. Too many guitars. In realtà tutti gli intoppi tecnici che ci sono stati sono uno scherzo del nostro vigliaccone Cicillo, che ci voleva ricordare che ieri era carnevale. In realtà tutto è andato per il meglio, nessun Murphy, nessuna cazzata del genere, siamo sempre in Mozilla Bros, siamo i migliori. Ma che cazzo, come? Catanominato.